Si è chiuso secondo te? Vedremo. Ma come mai sta domanda? Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dal centro di Montevarchi alla Galleria San Lorenzo in via Isidoro, ringraziando il solito santissimo Stefano Neri per la concessione di questi spazi. Fumino, stasera abbiamo con noi due ospiti che vengono da fuori, vengono da lontano, da una realtà amica di Montevarchi per una serie di ragioni, la principale perché c'è una forte amicizia, un forte gemellaggio Ultras che va avanti da più di 30 anni, se non erro. E proprio così, Julian, stasera sono venuti a trovarci negli studi di Radio Big World due amici di Empoli, Roberto e Morris. Tu hai detto più di 30 anni, in realtà questo è l'anno del trentennale del gemellaggio che vede Montevarchi ed Empoli uniti in un'amicizia che ormai è molto solida e che continua fortunatamente ad andare avanti. E stasera continuiamo il nostro volo alla ricerca della montevarchinità con un regista d'eccezione che in realtà è un direttore di orchestra questa sera, ovvero è con noi Ennio Morricone. E non è un caso che sia qua con noi, perché uno degli ospiti di stasera, Roberto in particolare, è un compositore e ha alle sue spalle varie cose fatte per l'Empoli, una più recente di cui parleremo più avanti. E però partiamo proprio da quella principale, che è ormai 32 anni che Roberto ha composto in effetti l'inno dell'Empoli Calcio. Intanto buonasera, benvenuti, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi, saluto anche te Morris. Buonasera a tutti. Che bella osa venire qui così per farvi un po', per rappresentare questa amicizia. Sono anche un po' emozionato perché mi ricordo che quando ci siamo visti l'8 dicembre ho visto anche una bottiglia di vino con etichetta che avete fatto voi per un gemellaggio molto bella, che mi è stata donata dalla famiglia Del Rosso, e da lì un po' mi ha incuriosito questa cosa e poi vi ho conosciuto appunto meglio a seguire. Sì, noi siamo appunto tifosi ovviamente dell'Empoli, questo anziani, e oltre a essere anche l'autore dell'inno Azzurro e si muove, qui ne vado orgoglioso finché me lo lasciano, perché stanno facendo di tutto per levarmelo, però finché me lo lasciano ne vado orgoglioso. È bene quindi sottolineare e dire che è tuo, perché poi dai giorni che te lo levano comunque, sì, almeno. Sì, sono Roberto Talarico, autore e compositore dell'inno dell'Empoli, Azzurro si muove, che è un inno che è cantato anche nelle scuole, questo mi fa piacere e ne vado molto orgoglioso, perché anzi quando lo sento allo stadio mi commuovo, perché fare un inno di una squadra è un valore importante, forse si sono persi tanti valori all'interno della tifoseria, ma quando sente l'inno si sta tutti zitti, si alza le sciarpe al cielo. Ultimamente invece così si sembra essere a Sanremo allo stadio, però questo è un altro discorso. Andiamo un attimo indietro, raccontateci cosa rappresenta per voi da empolesi venire in una sera del genere a Montevarchi in nome di questa amicizia che nasce sui gradoni delle curve da un certo punto di vista. Sicuramente è una cosa bellissima, è emozionante, bello avere delle amicizie oltre che a Empoli, insomma anche fuori da Empoli a livello di tifoserie, e niente, questo insomma bene o male è quello che dovrebbe essere un po' con tutte le squadre, secondo me a livello di, non ci dovrebbe essere una rivalità assoluta, anche perché poi alla fine insomma siamo tutti amici, quindi comunque noi sicuramente rappresentiamo una tifoseria che con questi ragazzi ha diviso momenti stupendi, diciamo non ci vogliamo appropriare di cose magari spettano più altri, però siamo qui per rappresentare un'iniziativa e poi ne parliamo. Nello stesso tempo siamo partiti a casa a una certa ora, ci siamo anche persi per la strada, perché purtroppo ragionando dell'Empoli si salta anche le uscite dell'autostrada, però non vogliamo togliere ai nostri colleghi tifosi appunto i loro diritti a essere amici con voi, però in realtà amici con voi, però in realtà noi siamo onorati di questa storia, perché bisogna sentirle queste cose per farle. Ed in effetti, assaporando anche solo con la testa e con i ricordi di via che il tempo passa, tutte le varie occasioni di confronto che ci sono state fra Montevarchi ed Empoli, per quanto mi riguarda perlomeno è sempre una gioia, e via via appunto che il tempo passa mi rendo conto che c'è un fil rouge, c'è un qualcosa che magicamente unisce le nostre due comunità. Forse sarà per il fatto che siamo entrambi del Val d'Arno, voi quello inferiore, noi quello superiore, chi lo sa perché, però in effetti c'è un modo di fare, un modo di approcciarsi alle situazioni che riguardano nello specifico molto spesso lo stadio, il calcio o comunque la curva e vivere queste situazioni qua, ma però riguardano anche proprio la vita un po' di tutti i giorni. Ora io non so quanto voi siate a conoscenza di Montevarchi o dei montevarchini in generale, però quando vi viene di pensare al fatto che siamo gemellati da così tanti anni e che quindi per così tanto tempo ci scambiamo anche solo proprio le due chiacchiere, le serate insieme, l'avete avvertita anche voi questo fatto che c'è un qualcosa che effettivamente ci unisce, che forse non è stato un caso che Montevarchi 30 anni fa, l'unica amicizia che riuscì a mettere in piedi in un periodo in cui con qualsiasi altra tifoseria toscana erano, non dico cazzotti, ma comunque non era amicizia. Sì, in effetti questa amicizia è importante. Io credo che vada al di là del calcio. Io credo che un conto è il calcio e un conto sono i tifosi, secondo me. Voi siete ragazzi che avete dei valori importanti come ragazzi di Empoli. Vi siete trovati in tante occasioni, avete fatto delle cose, delle iniziative stupende. Un po' da esempio, secondo me, perché io ho frequentato per molti anni Montevarchi, ho degli amici, vi dicevo prima, venivo qui da ragazzo, però ho sempre saputo che voi eravate accaniti anche allo stadio e le società di tutti i colori. Forse è anche un destino un po' in comune, le società ci hanno fatto un po' tribolare, no? Le sofferenze ci hanno portato sulla stessa strada, però è veramente forte il gemellaggio, cioè tra noi e voi. Ripeto, io parlo un po' da tifoso anziano esterno, perché in realtà avete amicizie più forti che con me l'avete un po' più da stasera, però è fortissimo questo legame, se no in quel pranzo l'8 dicembre le cose non sarebbero andate come sono andate, poi ne parliamo, insomma. Tra l'altro noi con questa trasmissione diciamo sempre di indagare questa montevarchinità, che è un neologismo che un po' abbiamo inventato, perché noi vediamo la porta d'accesso dello stadio Brilliperi come la porta d'ingresso alla montevarchinità, dove montevarchini più o meno a prescindere dalle divisioni si trovano tutti insieme a tifare o a lottare o a combattere per una stessa cosa, e sarebbe la vittoria di Montevarchi. Nel caso vostro, quanto essere di Empoli si rispecchia nel tifo per l'Empoli? Cioè l'empolesità, se esiste, ce la potete raccontare? Allora, Empoli è un po' particolare, perché essendo un po' come città nel mezzo a tutte le province tra Firenze, Pisa, Livorno, è un po' nel mezzo, no? Quindi trovare alla fine proprio l'empolese doc che tifa solo Empoli non ce n'è tantissimi. Infatti allo stadio siamo sempre 4.000, 3.500, poi in seconda anche in base a che tipo di categoria tu sei a giocare, insomma. E quindi secondo me quelli veri che siamo quei 3.000, e quei 3.000 che andiamo sempre allo stadio ti fa capire poi alla fine le persone come siamo, e siamo i veri Empolesi Doc, e questo è il vero Empolesi Doc. E quello è comunque sia la domenica o il sabato, gli anticipi e posticipi, ti trovi sempre allo stadio, perché comunque sia è un luogo di ritrovo degli amici che magari durante la settimana non ti vedi perché problemi familiari, il lavoro, eccetera eccetera. Ti trovi la domenica o il sabato allo stadio e lì ti bevi una birra insieme ai tuoi amici, fumi una sigaretta, ti dice due cavolate durante tutta la partita, magari passa anche la partita che non la vedi nemmeno, però ti sei visto con i tuoi amici e ti sei raccontato quelle due o tre cose che hai fatto durante la settimana, ti sei passato la domenica felice e contento che l'Empoli abbia perso e che abbia vinto alla fine. Sì, se vince è meglio, per l'amor di Dio, ma se pareggio, se perde, comunque sia, tra le amicizie comunque sia rimangano. E quindi è quello che secondo me è questo, ritrovarsi allo stadio, che se uno anche di Fucecchio, nel senso di Cerreto, va bene uguale, però quando sei lì dentro sei empolese e quindi va bene così, insomma, ritrovarsi a raccontare un po' di cose di volta in volta. Io sono buono, sì, sono fatto così. No, secondo me sei troppo buono. Io invece quando vedo gli empolesi e tifano la Fiorentina quando si gioca contro la Fiorentina, o c'è la Juventus, se vanno di là alla curva. No, io infatti ho detto 3.000, sì. Poi quando siamo 5-6.000, gli altri sono degli altri, non sono empolesi. A me, sì, va bene, no, faccio vedere. A me non mi torna. Cioè, bisogna fare una squadra sola. Che discorso c'è? Essendo Empoli, devi fare l'Empoli, o ti fai un'altra squadra, poi fa l'Empoli e poi, ora mi riferisco, l'hai detto te, per l'amor di Dio, ti fa l'Empoli e poi la Fiorentina, l'occasione l'ho messo. No, fanno parte della mia mentalità. Io ho sempre tifato Empoli e anche te, ma ti fare Empoli vuol dire soffrire, vuol dire non avere mai una costanza, essere presi in giro, ci chiamano i cugini, sì, però quando si è vinto a Firenze, e io me lo ricordo, e io lo dico anche, mi vergogno, quando si è vinto con Martuscello, a me mi è scappato da piangere, ho pubblicato anche un video su Facebook, un cretino, però sono cose così, non si possa spiegare, poi cioè, siamo grandi e vaccinati tutti, però i motivi, chi ci sente parecchio fa così, insomma. Ma invece tu l'hai spiegato veramente bene, perché comunque io personalmente non solo mi rivedo, ma rivedo anche il nostro modo di vedere il calcio, di vedere alla partita, di andare alla partita, almeno il mio. Tra l'altro mi veniva anche in mente, ad esempio, quell'unica volta che è capitato di incontrare la Fiorentina a Firenze, noi che c'era un migliaio, credo, nel formaggino, si sapeva che c'era però alcuni montevarchini che erano andati a vedere la partita però dalla parte dei fiorentini, e la cosa nel senso un attimino faceva girare coglioni, quindi è comprensibile. Oltretutto è tutto con le dovute proporzioni, Empoli è comunque una società e una squadra che insomma calca palcoscenici importanti rispetto ai nostri da sempre, quindi è chiaro che magari logicamente ci sta che questo fenomeno sia ancora più vasto quando anziché giocare una volta sporadico alla Fiorentina gioca una domenica alla Juventus, una domenica con la Fiorentina stessa, insomma quando calchi certe categorie ci sta anche. Però chiaramente è giusto quello che dicevi te, secondo me bisogna tifare una squadra sola. Io per dire tifo solo in Montevarchi, invece purtroppo c'è chi viene e pure tifa anche altre squadre, questa. Però insomma ripeto, quei 3.000 bene o male che siamo sempre, si spera, e poi alla fine diciamo una squadra sola, sì, poi magari per l'amor di Dio siamo persone civili, si rispetta anche gli altri, si protte un tuo venire con la maglia della Fiorentina dove c'è gli empolesi, con il figliolo, poi tu trovi, cioè, queste cose non si possono fare, via, siamo buoni tutti, però se siamo d'Empoli siamo d'Empoli, e se no è inutile. Ora questi ragazzi di Montevarchi, io ho visto che partire da loro, non è che siano tanto calmi, cioè fanno il casino, però insomma ho visto delle scene tremende anche in categorie così, me le ricordo queste cose, però a parte le battute io non voglio passare per violento, però secondo me non si può, se viene la Juventus e andare di là perché c'è la Juventus, te di qua non ci può più tornare, secondo me. Io me lo ricordo. Parole perché sante. Poi magari ancora di qua, puoi fare anche il ganso, puoi fare l'allenatore, fai il vice commissario tecnico, e no, vada di là un'altra volta dopo, però siccome se tu dici qualcosa in più passa violento, allora sto zitto. Ma fa bene di queste cose, che se no poi io... No, perché da quando ho le figliole sono diventato più calmo, capito? No, ma questo vuol dire essere violenti, vuol dire dire le cose che si pensa, cioè la violenza è un'altra cosa. Infatti io ho apprezzato il mondo degli ultra, grazie a questa cosa ho fatto, tipo riparliamo di Emiliano, ho scoperto che dietro il mondo degli ultra ci sono ben altri valori, la fratellanza e le condividere delle storie. Cioè, secondo me bisognerebbe scrivere dei libri su queste storie, perché dietro questo mondo c'è ben altro, non c'è soltanto quello che tutti vogliono farci vedere. Poi secondo me oggi il tifo è un po' confezionato, è un cliché preparato, invece i veri sentimentalisti sono come questi ragazzi stasera che fanno queste iniziative che ti spezzano il cuore dalla gioia, perché poi la passione è questa, nessuno vuol pensare di andare a fare chissà cosa, però la passione è questa per una squadra. E appunto, Roberto, hai tirato in ballo il mondo ultras con tutte le sue sfaccettature, con tutto quello che ne comporta, con tutto quello di cui è disegnato dall'opinione pubblica o dai media, ma c'è un mondo ultras che in effetti è anche un'altra cosa. E allora arriviamo al nocciolo di questo 8 dicembre, perché comunque è una data, una ricorrenza triste per il popolo empolese, ma non solo, e probabilmente è una ricorrenza triste per il mondo ultras italiano in generale, forse anche più che italiano. questo 8 dicembre ultimo è stata pubblicata la tua canzone composta in ricordo appunto di Emiliano tragicamente scomparso nel 2004. Cosa ti è rimasto adesso a bocce ferme, che la cosa è fatta, che è un po' che è uscita, cosa ti è rimasto ripensando a questa esperienza? Mi sono rimasti dei valori importanti sulla pelle. Innanzitutto questo orso bianco, che io ho immaginato che lui era un orso bianco, questo orso così grande che secondo me scriveva coi suoi occhi, dava dei messaggi un po' a tutti, che lui aveva parole per tutti, questo ragazzo. Era una persona che pensava ad aiutare gli altri, quindi al di là anche del calcio. Lui non voleva stare al mare, mi raccontavano i suoi genitori che lui doveva tornare al bar Quattro Mori perché doveva stare con gli amici e parlare dell'Empoli, cioè per lui era una scelta di vita, con dei grossi equilibri. Poi difetti li abbiamo tutti ovviamente, no? Però questo ragazzo mi ha colpito, queste sue braccia grandi, questo suo fisico protettore, proprio un capo di riferimento. Scrivendo questa canzone, che è nata nel massimo rispetto dei fatti, ma con la massima collaborazione della famiglia, con la quale è nata una grande amicizia sincera, perché ovviamente quando si fanno queste cose bisogna chiedere il permesso. Io non sono qui perché a presentare questa canzone per cose mie, ma solo perché ho scoperto che dietro gli ultra ci sono tanti altri valori. Onestamente non sapevo nemmeno io di arrivare a questa cosa quando l'ho scritta, però mi sono arrivati messaggi da tutta Italia, da ultra di tutta Italia, perché conoscevano Emiliano, e anche chi non lo conosceva mi diceva che in questa canzone si sono identificati in tanti. Ora non sto a leggere queste frasi, ma a me mi hanno colpito che gente da tutta Italia mi scrivesse, o che ho incontrato anche per lavoro a Bergamo dei tifosi dell'Atalanta, che ci siamo trovati anche per lavoro, perché giro l'Italia per lavoro, mi hanno detto delle cose stupende, ma da tutte le parti d'Italia sono arrivate delle cose che io non mi sarei mai immaginato, e mi sono sentito questa responsabilità addosso anche di questa cosa. A un certo momento ho detto, io buono, ma che ho toccato qui? Però la famiglia del Rosso mi ha rassicurato in questo, che non ti preoccupare, ci siamo noi dietro, te un tuo toccato tasti non tu dovevi, siamo orgogliosi di questa iniziativa. E la mamma di Emiliano ha detto, tutte le volte vedrò una visualizzazione in più su YouTube, questa canzone è un ricordo in più per mio figlio, e finché mio figlio verrà ricordato io vivrò sempre, nel momento in cui nessuno penserà più a lui io forse mi renderò quel momento che anch'io sono morto anch'io, scusate le parole ma sono queste. Quindi questa canzone parla di lui, io invito un po' tutti ad andare a scontare questa Emiliano su YouTube, Emiliano del Rosso, e se la volete condividere ancora ci fa più piacere. Pensate a che Militello ci ha fatto questo grande regalo di pubblicarla, so che l'hanno ascoltata gli Statuto, cioè con la famiglia del Rosso la stiamo divulgando a destra e a sinistra, incontra parecchio. Qui non c'entra la bellezza della canzone, qui c'entra il messaggio di fratellanza, di unione. Questo ragazzo quando ci ha lasciato tutta l'Italia, gli stadi hanno fatto uno striscione per lui, cioè una cosa incredibile. Era uscito un libro che ho sul mio comodino, non mi conoscete ma è la verità, che raccoglieva tutti i messaggi degli ultra che hanno scritto Emiliano, oltre le foto sua e dei momenti belli e brutti della sua vita, anche purtroppo del funerale. E io sul comodino l'ho letto, è qualcosa di incredibile. Che questa fratellanza che c'è tra in questo mondo ultra, se tanti la conoscessero smetterebbero di parlare in una certa maniera. Cioè io non pensavo a una cosa del genere, lo dico anch'io come tifoso, c'è una cosa impressionante, cioè questa canzone ha fatto dire a tutti la stessa cosa. Onore e rispetto a queste parole, l'ultima è arrivata a questo, te non sai quello che hai scritto, ci fai sentire tutti più uniti, dovrebbe essere l'inno degli ultra, non sono parole mie, sono parole di gente che mi ha scritto che io non conosco. E questi messaggi man mano mi arrivavano, giravo alla famiglia che è rimasta, cioè immaginate voi, sapete che tutta Italia ancora oggi parla di questo ragazzo, cioè è un fenomeno anche per noi empolesi. Qui magari dovrei chiedere, cioè la società dell'Empoli dovrebbe capire queste cose, che potrebbe essere anche l'occasione per far sì che questa iniziativa porti avanti anche il tifo empolese come esempio. Noi che nelle scuole Empoli abbiamo un'iniziativa che è la scuola del tifo, fatto anche appunto da Babbo di Emiliano e da tante altre persone come Athos e tanti altri, cioè nelle scuole viene portato il messaggio del vero tifo con l'inno dell'Empoli che ho scritto io e ne sono orgoglioso finché me lo lasciano, ripeto, e addirittura hanno preso il testo Lanzo Emiliano Saputo e l'hanno fatto leggere bambino a scuola. Ecco, a questi punti voi ditemi che si può fare più di così. C'è una canzone parla di un ultra e letta alle scuole dei bambini. Cioè, io ragazzi, più di questo, quando l'ho saputo, ho detto allora qui siamo al massimo. Bene, allora io direi, Julian, visto che Roberto è stato così gentile da concederci il permesso di trasmettere la sua canzone in ricordo di Emiliano, di prenderci 4 minuti per ascoltare questa canzone in esclusiva sulle frequenze di Radio Big World. Sempre agli altri e ai loro sogni e alle loro paure. In fondo siamo tutti figli della stessa incertezza. Emiliano, oltre di tutte le curve del mondo, signore e signori, cantate con il sorriso. Signore e signori, piega il cappello per rispetto, per rispetto. Con quelle braccia così grandi e avvolgenti, come un tramonto di fine estate. Quel cappello che ci indica la giusta strada, sempre primo in ogni occasione, sempre primo a rispondere al dolore di chi dalla vita ha avuto solo la gioia di urlare ad un pallone. Emiliano, oltre di tutte le curve del mondo, signore e signori, cantate con il sorriso. Emiliano porta la bandiera sul petto. Signore e signori, via il cappello per rispetto, per rispetto. Del mondo, signore e signori, cantate con il sorriso. Emiliano porta la bandiera sul petto. Signore e signori, via il cappello per rispetto, per rispetto. Tra di tutte le curve del mondo, signore e signori, cantate con il sorriso. Emiliano porta la bandiera sul petto. Signore e signori, via il cappello per rispetto, Emiliano oltre di tutte le curve del mondo. Signore e signori, cantate con un sorriso. Io tra l'altro per me il giorno dei funerali di Emiliano fu proprio uno spartiacque rispetto a quello che dicevi te, nel senso di rendersi conto di cosa c'è dietro il mondo ultras a prescindere dalle etichette o dalle apparenze. Perché io ricordo, io non ho mai conosciuto Emiliano ovviamente, ero giovane, 2004 se non erro era l'anno, andavamo in trasferta, non mi ricordo esattamente se a Massa o a Carrara, il giorno del funerale che se non erro si tenne inizialmente allo stadio. E noi ci fermammo con i nostri pullman allo stadio, quindi io era la prima volta credo che entravo allo stadio di Empoli, entrai in questa circostanza per il saluto a una persona che io effettivamente non avevo mai visto, però le sensazioni, la situazione era veramente molto toccante, tanto che appunto per me proprio la ricordo davvero come uno spartiacque per rendermi conto veramente di quello che c'è dietro, anzi oltre le etichette che si danno al mondo ultras. Non è successo in Italia un evento del genere, non so da altre parti d'Europa, ma in Italia sicuramente non è mai successo. Io ti posso garantire che per me fu una roba incredibile, cioè rimasi veramente fortemente stupito e chiaramente poi di conseguenza ti informi, capisci che persona era Emiliano, oltretutto tanti dei nostri colleghi di curva lo conoscevano, cioè avevano un rapporto personale, quindi poi attraverso i racconti insomma sono anche entrato in un certo senso a capire questa persona quasi se l'avessi conosciuta veramente, quantomeno per l'aneddoto che mi hanno raccontato. Però ricordo la mattinata veramente, quelle due ore, un'ora, noi rimanemmo lì prima di riprendere per la trasferta, veramente molto toccanti. E in quello appunto te dicevi, quello che ti sei reso conto te al momento che la canzone è andata a giro e che tu hai ricevuto tutti questi attestati di stima un po' da ovunque, lo ritrovo in quello che provai ai tempo. C'era questa grande vicinanza, ora se non erro c'erano ragazzi da Parma, probabilmente c'erano ragazzi da Fasano, cioè era una situazione veramente forte, toccante. E quindi boh, per me personalmente, ripeto, è stato un momento di cambio di percezione rispetto all'andare alla partita a divertirsi, però dietro c'è anche altro. Quindi per me, io vi ringrazio e ti ringrazio anche per essere qui, per aver presentato la canzone e per aver dato anche l'occasione al Volo dell'Aquila di poter diffondere questa cosa che è obiettivamente bellissima. Ebbene, e continuiamo a parlare della canzone di Emiliano, stavolta io da musicante, insomma, mi diletto a suonare ogni tanto un pochino la tromba e di conseguenza mi viene la curiosità, io non sono in grado di comporre niente. Com'è che si fa nascere una canzone e il tuo strumento qual è? Allora ti spiego tutto. Intanto davanti a te c'è un maestro di tromba, capito? Un professore di tromba. Morris, siccome qua il Volo dell'Aquila scopre i segreti, ecco, diciamo, ma la tromba che si sente nella canzone di Emiliano la suoni tu? Sì, quella è, se vogliamo entrare un po' nel dettaglio, è un flicorno. È un flicorno, sì, l'ho suonata io. E poi insomma, vabbè, poi mio fratello dirà anche tutti gli altri musicisti che hanno partecipato alla canzone, che è giusto dirlo, e hanno partecipato con tanta volontà, pur non conoscendo la situazione. Mi spiego come è anche andata. E poi ve lo dice per bene lui, insomma, nel dettaglio. Praticamente è andata così. La canzone è nata verso le 3 di notte, io mi sono alzato. Se quando ti alzi c'è un pensiero in testa, ognuno di noi ha le sue cose, no? Uno scrive una cosa, uno sente una canzone, cioè non è che bisogna essere artisti, artisti siamo tutti, nel momento in cui si fa una cosa ci piace. Ho sentito questa storia e quando l'ho scritta mi sono reso conto che era qualcosa di particolare, che ero un po' imbarazzato perché ho detto ma che ho fatto, ho esagerato, avevo paura anche di toccare sentimenti che non dovevo toccare. Poi ho detto, porca miseria, ma qui è mica, cioè, di solito mi piace tanto. Vedo l'ora di farla ascoltare ai fratelli di Emiliano e poi è nata questa cosa bella. Come del resto, come è stata suonata questa canzone? Questa canzone è stata suonata da tanti bravi musicisti di vari conservatori d'Italia che hanno voluto, pur non conoscendo il calcio, loro del calcio non sanno niente, capendo chi era Emiliano, gli ho raccontato chi era, l'ha talmente presa la storia emiliana, non ha voluto partecipare, diciamola gratis, sembra scontato ma non lo è, ha detto no, io voglio dare del mio. E chi la batteria, Olmo Dimitri Romanelli, Roberto Bohicchio al basso, Fabio Zini alla chitarra, Morris Talarico, mio fratello, alla tromba, e Roberto Talarico, sono io, alla voce e piano. Però questi ragazzi hanno dato il massimo, e vi dico, ci sono stati momenti dove abbiamo pianto. Guarda, è qualcosa di incredibile vedere piangere ragazzi diciottenni a fare una cosa di uno non conosca nemmeno e che del calcio non sanno nulla. È lì che è stato bello per me, a 54 anni. Ho detto a mio fratello, quando la suoni te questa canzone, devi pensare come se Emiliano fosse accanto a te, ma non in maniera tragica, è come se fosse un orso bianco e ci guarda dalla curva, cerca di suonare con rispetto ma anche con un suono e sia il giusto riconoscimento, l'onore a un generale. E così è andata e ne siamo veramente orgogliosi, perché io ci ho pianto tanto a fare questa cosa, perché piangere, cioè piangere l'uomo è forte, ricordiamocelo tutti, e fa bene anche avere il coraggio di dirlo, perché Emiliano mi ha permesso anche di vivere momenti magici, voglio dire anche per me stesso, ha fatto bene anche a me scoprire certi valori, essere felice di aver scritto una cosa del genere, essere orgoglioso di averla avuto la fortuna di scriverla, perché a me ricevere tutte queste cose è stato, tutti i giorni vedo 30, 40, 50 visualizzazioni, tanta roba, cioè nasce da solo, quindi va avanti perché la gente la può ascoltare, e questa è una bella cosa. Che dire, io onestamente sono molto colpito da tutto, anzi grazie davvero per aver condiviso con noi questa storia, questa canzone, la vostra esperienza e sensazioni, perché anch'io penso onestamente quando si riesce a toccare certe corde dell'essere umano, certe vibrazioni positive, ora fa un po' lippi, però ci credo davvero, insomma significa... che la cosa è magica, che nasce da un sentimento e che quindi poi quando si vede che le stesse sensazioni riescono a provarli altri e altri e altri e altri, la cosa diventa un qualcosa che si autoalimenta, sicuramente è qualcosa di unico. Quindi io personalmente vi ringrazio per essere venuti, perché è un privilegio per il Volo dell'Aquila poter ospitare questo. Senti, io vi ringrazio voi, perché questa esperienza di stasera è pazzesca veramente, cioè se si pensa che... Si parlava prima fra di noi, chi si è alzato alle 5 per lavorare, alle 4 e così via. Ci si trova qui, non ci si conosce nemmeno, salvo ci conosciamo, sì, ma stasera sicuramente è nato qualcosa di più ed è stupendo che ci incontriamo, sì, e ci mettiamo a raccontare qualcosa del genere, così, che per altri hanno valore, per noi vuol dire tutto, no? Questa è una grande magia. Quindi sono io che ringrazio voi, perché mi avete permesso di, a parte sentirmi più giovane, ma soprattutto di... Io credo in certi valori e quindi vedo che ci sono ancora. Per me aver scritto l'inno dell'Empoli è un onore, un orgoglio immenso, e aver scritto qualcosa e parlo di uno dei generali dell'Empoli, dei tifosi dell'Empoli, ancora di più. Tutto il resto non conta. Io sono già a posto così, quello che potevo dare l'ho dato e sono felice. E mi auguro appunto che questo messaggio arrivi un po' a più là possibile, perché Emiliano si merita tutti... i nostri ricordi, a parte che ho visto che anche senza questa canzone lui va avanti nella mente di tutta la gente d'Italia. Io ho avuto solo avuto il privilegio di fare qualcosa che aiuti un po' di più a non dimenticarsi di lui, perché non ci dimenticheremo mai di lui. Buonanotte a tutti e grazie allora. Buonanotte a tutti. Grazie a voi Morris e Roberto anche da parte mia. Chiudiamo qua questa puntata di stasera, puntata che sinceramente ci lascia con un po' di magone, anche solo al ricordo di Emiliano, però con un grande piacere di avervi conosciuto ancora meglio, di aver ascoltato la vostra canzone. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World, ringraziamo il nostro direttore di stasera Ennio Morricone, ringraziamo Stefano Neri, santo subito, che ci concede come sempre gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in Via Isidoro a Montevarchi, e ci diamo appuntamento per il prossimo giovedì con il Volo dell'Aquila. Grazie. Sì, sì. Ma Morricone c'ha 90 anni, ragazzi. Vedi, noi siamo più giovani. Se va, allora. questo, questo è un ammettere. Post Bornea, a parlare di... Che vede? Che vede? Sì. Sha-la-la-la-la. Qui dalle 5 sono piedi, ma li vedi? Quanti specificato quei 3.000 che si va allo stadio, quegli altri poi vengono a me mi fanno la volta perché sono da 6 sono per i Montevarchi. E poi, certo. Poi basta, Montevarchi, cioè, quanto ne devo fare di qua? Siamo fuori genere, ma però lui ne ha fatto, ma nemmeno me se lo pagavo. Non si va, però praticamente la violenza poi. Se arriva a Bologna, se arriva a Bologna. Un fucilato nemmeno per Empoli, ma dai, è dritto. Perché ci sono certe persone, come ho detto anche recentemente, nascono per aiutare gli altri, Emiliano, è qualcosa di particolare, se no tanta gente non c'è. Beh, forza, sì. Prova. Da loro non è quello. Però non registra a questo, sennò Vanitti, l'ho detto prima. No, no. Bastardo. Si diverte. No, insomma, no, lasciamo stare, ma non